Il terzo anello ad alta voce, il circolo Pickwick di Charles Dickens. Così, con la sola parentesi di un bicchiere di birra ogni tanto, quando la diligenza si fermava a cambiare i cavalli, lo sconosciuto continuò a parlare sullo stesso tono finché non raggiunsero il ponte di Rochester. E a questo punto i quaderni degli appunti, sia di Mr. Pickwick sia di Mr. Snodgrass, erano stati riempiti completamente di brani scelti delle sue avventure. «Belle quelle rovine», disse Mr. August Snodgrass, con tutto il fervore poetico che lo distingueva quando furono in vista del vecchio castello. «Che occasione per uno studioso di antichità!» Furono le esatte parole che uscirono dalla bocca di Mr. Pickwick quando ebbe portato il suo cannocchiale all'altezza dell'occhio. «Ah, bel posto!» disse lo sconosciuto. «Glorioso edificio! Severi bastioni, archi vacillanti, recessi tenebrosi, scalinate che cadono in rovina, e anche la vecchia cattedrale, il suo odore di terra, gli antichi scalini consumati dai piedi dei pellegrini, le piccole porte sassoni, i confessionali simili ai botteghini dei teatri, strana gente coi frati, papi, gran tesorieri e tutti quegli antichi personaggi con il faccione rosso e il naso rotto continuano a saltar fuori, e giacche di camoscio, fucili a miccia, sarcofaghi, a bel posto, antiche leggende, strane storie, molto interessante». E lo sconosciuto continuò il soliloquio finché non ebbero raggiunto l'albergo del Toro, sul corso principale, dove la diligenza si fermò. «Alloggiate qui, signore?» gli chiese Mr. Nathaniel Winkle. «Qui? Io no, ma a voi conviene. Ottimo albergo, letti comodi. Un po' più avanti c'è Wright, ma è caro, troppo caro. Ti mettono in conto mezza corona se guardi il cameriere. Ti fan pagare di più se mangi fuori da un amico che se resti a mangiare lì. Bei tipi, vi assicuro». Mr. Winkle si voltò verso Mr. Pickwick e gli sussurrò qualche parola. Un mormorio passò da Mr. Pickwick a Mr. Snodgrass, da Mr. Snodgrass a Mr. Tupman, e furono scambiati fra loro cenni di consenso. Poi Mr. Pickwick si rivolse allo sconosciuto. «Ci avete reso un servizio di grande valore questa mattina», disse. «Vogliate permetterci di darvi un modesto segno della nostra gratitudine, chiedendovi di onorarci con la vostra compagnia per il pranzo?» «Con grande piacere! Non vorrei dettar legge a nessuno, ma pollo arrosto e funghi, non c'è di meglio. A che ora?» «Un momento che guardo», rispose Mr. Pickwick estraendo l'orologio. «Adesso sono circa le 3. Va bene alle 5?» «Per me va benissimo», disse lo sconosciuto. «Alle 5 in punto. Nel frattempo, statemi bene». E alzando di pochi centimetri sopra la testa il cappello ammaccato, rimettendocelo poi di sghimbescio con noncuranza, lo sconosciuto, con metà del pacchetto di carta scura che gli sporgeva dalla tasca, si allontanò, tutto arzillo, attraverso la corte e svoltò nel corso. «Un uomo che ha viaggiato in molti paesi, un acuto osservatore di persone e di cose», disse Mr. Pickwick. «Mi piacerebbe leggere il suo poema», disse Mr. Snodgrass. «Mi piacerebbe aver conosciuto il suo cane», disse Mr. Winkle. Dopo aver fissato una saletta privata, ispezionato le camere da letto e ordinato il pranzo, il gruppo uscì per dare un'occhiata alla città e agli immediati dintorni. Thank you. Da un attento esame degli appunti presi da Mr. Pickwick sulle quattro città di Stroud, Rochester, Chatham e Brompton, non risulta che le sue impressioni sul loro aspetto differiscano praticamente in qualche punto da quelle degli altri viaggiatori che hanno attraversato la stessa regione. La descrizione generale può essere facilmente riassunta. «I prodotti più importanti di queste città, dice Mr. Pickwick, sembrano essere soldati, marinai, ebrei, gesso, gamberi, ufficiali e operai dell'arsenale. Le merci esposte in vendita con maggiore frequenza nelle pubbliche vie sono articoli marittimi, gallette, mele, sogliole e ostriche. Le strade hanno un aspetto vivace e animato, dovuto soprattutto allo spirito conviviale dei militari. È davvero commovente per un animo filantropico vedere questi prodi giovanotti passeggiare barcollando sotto l'influsso della forza eccessiva, sia loro sia dei liquori, soprattutto se si pensa che a seguirli e scambiar lazzi con loro procura un divertimento innocuo ed economico alla popolazione dei ragazzi. Nulla, aggiunge Mr. Pickwick, può superare la loro giocondità. Solo un giorno prima del mio arrivo era successo che uno di loro fosse stato insultato molto rozzamente in una bettola. La ragazza del banco si era fermamente rifiutata di versargli ancora da bere, al che il soldato, solo per scherzo, aveva estratto la baionetta e ferito la ragazza alla spalla. E nonostante questo, il buon figliuolo era stato il primo a tornare all'osteria il giorno dopo e a dichiararsi pronto a lasciar correre e a dimenticare quello che era successo. Il consumo del tabacco in queste città, prosegue Mr. Pickwick, deve essere molto forte. L'odore che impregna le strade deve essere addirittura delizioso per chi ha la passione del fumo. Un viaggiatore superficiale potrebbe sollevare qualche obiezione per la sporcizia, che è la loro principale caratteristica, ma per coloro che la considerano come un segno dei traffici e della prosperità commerciale, è una cosa che fa veramente piacere. Puntualissimo, lo sconosciuto venne alle 5 precise. E poco dopo fu servito il pranzo. Si era liberato del pacchetto di carta scura, ma non aveva portato alcuna modifica al suo abbigliamento ed era, se possibile, più loquace di prima. «Che cosa sono?» chiese mentre il cameriere alzava uno dei coperchi. «Sogliole, signore». «Ah, sogliole! Ottimo pesce! Vengono tutte da Londra. I proprietari dei servizi di trasporto organizzano banchetti politici, vagoni di sogliole, dozzine di ceste. Quei furbacchioni! Un bicchiere di vino?» «Con piacere», disse Mr. Pickwick, e lo sconosciuto bevve prima con lui, poi con Mr. Snodgrass, poi con Mr. Tupman, poi con Mr. Winkle e poi con tutti e quattro insieme, quasi con la stessa rapidità con cui parlava. «C'è una confusione del diavolo sullo scalone, cameriere», disse lo sconosciuto. «Sedie che salgono, falegnami che scendono, lampade, bicchieri, arpe. Che sta succedendo?» «Un ballo, signore», disse il cameriere. «Una festa privata?» «No, signore, non una festa privata. È una festa di beneficenza». «Sapete se ci sono belle donne in questa città?» chiese Mr. Tupman con grande interesse. «Ah, splendide, di prim'ordine. Il Kent, signore, tutti conoscono il Kent. Mele, ciliegie, luppoli e donne. Un bicchiere di vino?» «Con grande piacere», rispose Mr. Tupman. Lo sconosciuto riempì e vuotò. «Mi piacerebbe moltissimo andarci», disse Mr. Tupman tornando sull'argomento del ballo. «Moltissimo». «I biglietti al bar, signore», intervenne il cameriere. «Mezza guinea ciascuno». Mr. Tupman espresse nuovamente il suo vivo desiderio di partecipare alla festa, ma non trovando risposta nell'occhio opaco di Mr. Snodgrass e nello sguardo vacuo di Mr. Pickwick, si dedicò con grande impegno al vino di porto e al dessert, che erano arrivati in tavola. Il cameriere si ritirò e i commensali furono lasciati a godersi le loro due orette di serena digestione. Thank you. «Domando scusa, signore», disse lo sconosciuto. «La bottiglia è ferma, fatela girare. Il vino è calore del sole, giù per il gargarozzo fino all'ultima goccia». E vuotò il suo bicchiere che aveva riempito circa 2 minuti prima e se ne versò un altro, con l'aria di non aver mai fatto altro in vita sua. Il vino fu scolato e ordinato di nuovo. L'ospite parlava e i pickwickiani ascoltavano. Mr. Tupman si sentiva sempre più incline a partecipare al ballo. Sul volto di Mr. Pickwick brillava un'espressione di benevolenza universale e Mr. Winkle e Mr. Snodgrass si addormentarono di botto. «Stanno incominciando di sopra», disse lo sconosciuto. «Sentite che brusio? Accordano i violini e adesso l'arpa. Ecco, adesso si lanciano». I vari suoni che arrivavano fin giù erano quelli dell'inizio della prima quadriglia. «Come mi piacerebbe andarci», disse ancora Mr. Tupman. «Anche a me», disse lo sconosciuto. «Maledetto bagaglio, quei barconi non arrivano mai. Non ho niente da ammettermi. Che disdetta, vero?» Uno dei cardini della teoria pickwickiana era l'amore del prossimo, e nessuno si distingueva tanto per lo zelo con cui osservava un così nobile principio come Tracy Tupman. Il numero di esempi citati negli atti della società, nei quali quell'uomo dal cuor d'oro aveva indirizzato alle case degli altri membri persone bisognose che chiedevano indumenti smessi o aiuti finanziari, è quasi incredibile. «Sarei ben lieto di imprestarvi l'abito adatto all'occasione», disse Tracy Tupman, «ma voi siete piuttosto magro e io invece piuttosto grasso, un bacco non più giovinetto, sfrondato dai pampini, disarcionato dalla botta e infilato nelle calze di lana, vero? Non doppio distillato, ma doppio filato. Passate il vino». Ancora oggi non si è potuto appurare completamente se Mr. Tupman si fosse un po' offeso per il tono perentorio con cui gli era stato chiesto di passare il vino che lo sconosciuto scolava così rapidamente, o se si sentisse a buon diritto scandalizzato per l'ignominioso paragone fra un membro autorevole del circolo Pickwick e un bacco sceso giù dalla botte. Passò il vino, tossì 2 volte e guardò lo sconosciuto con severa intensità per parecchi minuti. Ma dato che costui si dimostrava perfettamente tranquillo e assolutamente calmo sotto quello sguardo indagatore, a poco si distese e tornò a pensare al ballo. «Stavo appunto per dirvi, signore», disse, «che un mio vestito vi starebbe troppo largo, ma forse un abito del mio amico Winkle vi andrebbe bene». Lo sconosciuto valutò con uno sguardo penetrante le misure di Mr. Winkle e i suoi occhi brillarono di soddisfazione mentre diceva «Perfetto!». Mr. Tupman si guardò intorno. Il vino che aveva esercitato la sua influenza soporifera su Mr. Snodgrass e Mr. Winkle aveva prevalso anche sui sensi di Mr. Pickwick. Questo signore era passato a poco per i vari stadi che precedono e accompagnano la letargia prodotta da un buon pranzo. Aveva subito i soliti passaggi dal colmo dell'allegria conviviale al più profondo abbattimento e dal più profondo abbattimento al colmo dell'allegria conviviale. Poi aveva tremolato con una fiammella incerta e vacillante che alla fine era scomparsa del tutto. La testa gli era caduta sul petto e un russare continuo, inframmezzato ogni tanto dal sussulto di un parziale strangolamento, erano i soli sintomi udibili della presenza del grand'uomo. Desiderio di partecipare al ballo e di formarsi una prima impressione sulla bellezza delle signore del Kent tentava fortemente Mr. Tupman. Altrettanto forte era la tentazione di portare con sé lo sconosciuto. Non conosceva affatto la città e i suoi abitanti, mentre lo sconosciuto sembrava possedere una profonda conoscenza di entrambi, come se ci avesse abitato fin dall'infanzia. Mr. Winkle era addormentato. E Mr. Tupman aveva compiuto sufficienti esperienze del genere per sapere che nell'ordine naturale delle cose, quando egli si fosse svegliato, si sarebbe trascinato pesantemente a letto. Era indeciso. «Riempitevi il bicchiere e passate il vino», disse l'ospite infaticabile. Mr. Tupman fece come gli era stato richiesto e lo stimolo dell'ultimo bicchiere lo fece decidere. «La camera da letto di Winkle è interna alla mia», disse. «Non riuscirei a spiegargli di che cosa ho bisogno se lo svegliassi adesso, ma so che ha un abito da sera in un sacco da viaggio. E se voi lo indossate per il ballo e ve lo togliete subito quando torniamo, potrei rimetterlo a posto senza bisogno di disturbarlo». «Ottimo!» disse lo sconosciuto. «Un piano da stratega! Oh, maledetta situazione! 14 vestiti nelle casse di imballaggio ed essere obbligato a mettersi i vestiti di un altro! Addirittura comico!» «Assolutamente. Dobbiamo acquistare i biglietti disse Mr. Tupman. «Non vale la pena di cambiare una guinea», disse lo sconosciuto. «Tiriamo a sorte chi dei due deve pagare. Io scelgo. Voi lanciate la moneta. Vale il primo colpo. Donna, donna maliarda!» E la moneta ricadde mostrando il drago. Per l'appunto lo aveva chiamato donna, per pura cortesia. Mr. Tupman suonò il campanello, acquistò i biglietti e ordinò i candelieri per salire in camera. E nel giro di un quarto d'ora lo sconosciuto era tutto rivestito con un completo di proprietà di Mr. Nathaniel Winkle. «È un abito nuovo», disse Mr. Tupman, mentre lo sconosciuto si osservava compiaciuto nello specchio. «Il primo che sia stato fatto coi bottoni del nostro circolo!» E richiamò l'attenzione del suo compagno sui grossi bottoni dorati che mostravano al centro un busto di Mr. Pickwick e le iniziali C.P. sui due lati della figura. «C.P.?» disse lo sconosciuto. «Strana decorazione, le sembianze del vecchio e la lettera C.P.» «Che significa C.P.? Copri pancia!» Mr. Tupman, con crescente indignazione e gran prosopopea, svelò il senso del mistico emblema. «Piuttosto corto di vita, no?» disse lo sconosciuto, effettuando una torsione del dorso per guardarsi nello specchio i bottoni posteriori della marsina che gli salivano fino a mezza schiena. «Come succede ai postini? Strane giacche quelle, la fornitura è data in appalto, niente misure. Misteriosi decreti della provvidenza. Le giacche lunghe toccano sempre ai bassi, le giacche corte toccano sempre agli alti». E continuando su questo tono, il nuovo compagno di Mr. Tupman si aggiustò il suo vestito, o meglio, il vestito di Mr. Winkle. Dopo qualche minuto, insieme a Mr. Tupman, saliva lo scalone che portava alla sala da ballo. «Che nomi devo dire, signori?» disse il servitore alla porta. Mr. Tupman stava già per farsi avanti e dichiarare i propri titoli, quando lo sconosciuto lo prevenne. «Nessun nome!» E poi sussurrò a Mr. Tupman. «Meglio non dirli, nessuno li conosce. Ottimi nomi, a modo loro, ma non famosi. Nomi di prim'ordine per una piccola riunione. Ma non farebbero nessun effetto in una festa pubblica. Meglio l'incognito. Signori di Londra, distinti forestieri, qualcosa del genere». La porta fu spalancata e Mr. Tupman e lo sconosciuto entrarono nella sala da ballo.